amigo mío. Confía en lo que te digo y no le hagas caso a esa mujer. De donde yo vengo, si tú dices problema, ellos responden Tijuana. Oggi il sole sbuffa i suoi raggi nell'aria. E io affacciata alla finestra di casa. Lungo la strada sta passando Tijuana. Cento cuori infranti in coro gridano mami, richiamami. Lei invece tira dritto a passo svelto, andando incontro ad un destino che non ha mai scelto. Sguardo da futuro incerto e un passato hardcore. Ride e fuma con le amiche finché hai occhi bordo. In giro fino a che fa giorno. Fino a che le si spegne l'iPhone. Ferma il tempo quando entra nel club. Appariscente anche senza make up. Con le tipe dice io non mi ci trovo. Sarà perché ragiono come un uomo. Faccia da ghetto tipo Geno. Qua tutti sorridono ma lei no. Canta la sirena. Come un sospiro mi parla di te. C'è in strada la mia dea. Entro in un bar, facci i conti con me. Fa la scema per tutta la sera. È tutta scena perché in fondo è seria. Va in palestra da una vita intera. Però allena solo il fondo schiena. Non esce mai di casa se fa freddo. Piuttosto resta tutto il giorno a letto. In fissa con la sua serie TV. Mangia schifezze e aspetta il venerdì per farsi bella. Serena e Chanel. Saluta mamma e resta fuori tutto il weekend. E alla fine dei giochi tutti che io. Tutti sembrano zombie però lei no. Sirena, come un sospiro mi parla di te. C'è in strada la mia dea. Entro in un bar, facci i conti con me. Tu come una ballerina gitana, una rosa sulla schiena. Non resta neanche la cera, l'ultima candela si spegne ma ti vedo ancora. Per strada tutti guardano Tijuana. Lei prima fa le fuse e poi li sbrana. La notte in giro non fa mai la brava. Chiama un'amica, dorme fuori casa. Per strada tutti guardano Tijuana. Lei prima fa le fuse e poi li sbrana. La notte in giro non fa mai la brava.